Va ora in onda Il Varo Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica Simone One. Mi piace tutto, buonasera amici di Radio F. Sembrava il varo della nave. È il venerdì 15 aprile, siamo a mezzo aprile, eh? Mezzo aprile, mezzo dolce dormire. Mezzo di cantando. E via cantare, e via compagnia. Questa è Radio F, benvenuti, questa è Piazzata. Benvenuti. Enzo, Marcello, Simone. Alatere. E soprattutto voi. Ah, stasera soprattutto voi. Ma di questo ne parliamo tra un po'. Preparatevi perché questa è una puntata che schioppetta. Incandescente, direi. Caro Marci, caro Enzo, questo è sono il Radiohead. Pensa sì, era tutta un'intervista. The National Anthem, no, invece è piaciuto anche a me. È del 2000 questo album, e voglio parlare solo dell'etichetta che è la Parlophone. Parlophone, attenzione, attenzione. Che bello, è venerdì 15 aprile, questo Osamu ormai sta volgendo alla fine, ma quando volge alla fine il venerdì vuol dire che inizia il grandissimo weekend di Radio F. Esatto. Che noi vogliamo illuderci che parta con noi, caro Marcello. E poi perché parte di slancio. Anche dislessico. Parla un po' male e parla... I programmi per voi che ascoltate regolarmente Radio F sono tanti, lo sapete, quelli del sabato e la domenica. Chiaro. Non stiamo ad elencarne tutti perché sicuramente ce ne dimenticheremo qualcuno e non vogliamo farlo. Ma mi sembra quasi superfluo. Assolutamente. Perché. Fino ad arrivare alla buona domenica piena di sport, certo, e via e via, certo, via. Ma questa sera, chi siamo? Soprattutto stasera chi siamo? Enzo e Marcello, Piazzalta. Anche Simone, se vogliamo. Simone di ciao con la mano. Ciao a tutti. Ha fatto anche ciao con la mano. Oh. Come ci ascolta? Perché ci ascolta? No, perché ci ascoltano con le magiche frequenze in FM 89.2. Che bello, sì. In streaming www.radiof.it. Ancora. Con le nostre magnifiche app che ognuno ad oggi ha. Te scrive Radio F e la trova. Esatto. E cosa possono fare? Se i nostri ascoltatori sono molto social, c'è ovviamente Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Ma la cosa che stasera abbiamo bisogno di voi, cari amici ascoltatori, che siete a casa, perché la puntata la fate voi. E potete farla, pazzi, come potrete farla? Mandandoci un messaggio, un WhatsApp oppure un SMS al 392-4900-800. Ma io scusa, preferisco il vecchio metodo, quello analogico, 0575-648276. Che bello, guarda. 648276. Bellissimo. Ma vi risponderà la magica voce di Simone Oneone. E io non me la perderei. Questa è un'occasione per voi, ma fatelo. Donne, a correre. Fatelo perché avrete un grandissimo premio, che sarà una foto gigante di Marcello visto dall'alto, quindi praticamente una chiazza marrone. Se vuoi parlare con Chiara, Simone, chiama adesso. Oh, sarà veramente una serata particolare, una puntata... E fino alla fine non vi sveleremo il segreto. Ma forse non lo capirete neanche, probabilmente nemmeno dopo avervelo... spiego, se sentite dei rumori in sottofondo, non è Marcello che si muove con la sedia, ma abbiamo dei muratori che stanno facendo delle tracce. Dei foratori. Dei foratori. 20 metri in omaggio per voi. Come capite, è una serata partita bene. E come arriva? Come direbbe il poeta citato, Kundera. E Simone, a questo punto delizia le nostre orecchie, i nostri padiglioni auricolari. Aspetta, così lo dico, voglio fare un vaticinio. No, non era questo. Non è una canzone italiana. È bella forza. È italiana? Sì, direi di sì. No, il nome tra in inganno, ma comunque potevo dire tante cose. Hai scelto proprio 50 e 50. Non l'hai mai fatto, Enzo, non l'hai mai fatto. E adesso ho sbagliato, ascoltiamo Massimo Ranieri. Disco errore. Però non era, cioè, uno poteva dire che non erano italiani, però sono italiani, è un trio, un power trio, costituito dagli italiani Enrico Gabrielli, aspetta che te lo dico, Gabrielli, vabbè sì, ma vieni te, no no, mi interessa, Roberto Dell'Era e Lino Gitto, o Gitto. Incredibile, bravo. Ma questa sera, siamo soliti a questo punto della trasmissione, Piazza Alta Radio F, presentare l'argomento della serata. Ma che, siccome noi siamo una radio sperimentale, ma soprattutto un programma sperimentale, questa sera facciamo qualcosa di diverso. Esatto, la nostra redazione. Abbiamo aperto le nostre linee telefoniche, la nostra redazione, e ci siamo messi in ascolto praticamente. Quindi, durante tutta la settimana io, Marcello, Simone ci mettiamo lì e studiamo, lavoriamo ore e ore su chi invitare, di cosa parlare, certo, e ci siamo detti proviamo invece a fare qualcosa di nuovo nella terza edizione di questo programma, la 60 e passa puntata, perché non cambiare? Allora vi abbiamo invitato a chiamarci ai nostri numeri e lo avete fatto numerosi, ma subito allo 0575 648276, oppure mandandoci un messaggio al 392 4900 800 chiedendoci di essere richiamati. E incredibilmente per stasera noi stasera abbiamo qui il primo ospite, ma io non ne so niente, non so nemmeno il nome, proviamo cerchiamo di conoscerlo un po' meglio. Pronto? Pronto, Linus? Andare. Bravo, grazie, hai vinto il nostro foro. Con chi parliamo? Non vorremmo tradire le tue aspettative, ma siamo Enzo e Marcello. Ciao, chi sei? Scusate, ho sbagliato numero. Senti, hai detto non hai sbagliato numero, sei nel posto giusto al momento giusto. Sei Giacomo e il tuo analista lo sa? Ancora no, mi deve fare fattura, è il momento pure a me che è il momento più bene. Giacomo, da dove ci chiami? Incredibile. Un saluto a tutti gli amici biturgenzi, vero? Benissimo, come stai Giacomo? Diciamo bene. Senti, ma a quest'ora ormai tarda della sera. È tarda. Le 10:15. Vabbè, sarà un bambino, non lo so Giacomo, quanti anni hai? Non arriverà a 15 anni, non so, saremo in fascia protetta. Sì, sui 36. Portati come, scusa? Va bene. Bene, bene. Ecco, Giacomo, noi stasera facciamo un esperimento radiofonico. Ecco, dove ti trovi? Perché vogliamo capire... San Sepulcro. No, scusa. Dove stiamo entrando? In casa tua? Sei nel garage? In bagno? In questo momento sono sopra il letto. Ecco, allora fermo. Vogliamo sapere A. chi hai intorno a te, B. che cosa vedi, C. se hai una via d'uscita. Allora, io sono a fianco a me la mia ragazza. Incredibile. Scusa, ma cosa si fa scabrosa? Ti devo interrompere subito, scusa, sei sul letto con la tua ragazza e pensi a noi, sei troppo buono, oppure troppo anche con dei problemi. Ecco, siete solo voi due? No, a questo punto la cosa si fa interessante. Cioè, esperto, tutto è letto. E come si chiama? Marcello. No, attenzione, no, troppo buono. No, scusa, fuori onda, non avevi detto che c'era anche il gatto? Ma il gatto è uscito. Il quando gatto è uscito. Ha riconosciuto la voce, è scappato. Ah, ok. Quindi la tua ragazza si chiama? Valentina. Cioè, noi stiamo facendo il terzo grado. E siete una bellissima coppia, ovviamente. Ah, oh, tipo... Ma meglio lei che io, Signora, dipende anche dai gusti, ti dico la verità. Bene, certo, perché certo. Ci hai chiamato? No, ha chiamato perché abbiamo chiesto noi. Allora, questo è veramente un esperimento, perché noi siamo detti, vabbè, noi il venerdì sera dalle 10 alle 11 stiamo in radio, ma chi ci ascolta che cosa fa? Te, Giacomo, ti stai riposando? Sì. Ma perché hai in progetto di uscire dopo per una folle serata o perché proprio andiamo a letto alle 10 e un quarto di sera e non ce ne pensiamo più? Ma guarda, stasera sinceramente mi riposo. Bravo. Anche perché non so da voi, ma qui la valtiverina è morta. Ecco. Ma no, ma sicuramente è un momento. Ma probabilmente un po' così. Forse anche te non sai bene dove cercare. E in ogni caso, se sei automunito, potresti venire in Val di Chiana o nelle altre vallate che ci circondano e trovare un po' di vita. Di vita. Perché, scusa, che tipo di interessi hai nella vita? Pensa che domande... No. Questa era una domanda alla Marzullo, Ma interessi... Ma ormai tutti. No, Giacomo, ci dispiace, guarda, ti invitiamo venerdì prossimo in radio con noi per tirarti un po' su, almeno ci proveremo. No, ma è interessante questa cosa, Enzo, perché una persona come Giacomo, che non ha nessun tipo di interesse, che non esce venerdì sera, che non sa dove battere il capo, ascolta noi di Piazza Alta. Ma e questo è un momento, cioè è come un messaggio di speranza. È una catarsi, per te. Praticamente. Guarda, siete i miei unici amici tu pensi. Io chiuderei con questo, Giacomo. Grazie, Giacomo, sei troppo buono. Giacomo, senti, a questo punto mi viene un dubbio. Visto il tuo umore di questo momento, ma la tua ragazza è di carne ed ossa o è di plastica? Perché... Ma, fino a 5 minuti fa era di carne ed ossa, adesso è andata via dopo che ha sentito la telefonata. Cioè, la tua telefonata ti è costata l'amicizia del gatto e la ragazza. Guarda, hai fatto un sacrificio grandissimo. Noi ti ringraziamo. Ma forse sei in concorso per il nostro miglior fan del 2016, la magliettina di Radio Bicicletta. Ti mandiamo le mutande di Marcello. Ciao, grazie, Giacomo. Continua ad ascoltarci. Ciao. Beh, io direi un esperimento riuscitissimo. Siamo solo all'inizio, continuate a chiamare 0575 64 2276, oppure ci mandate un messaggio 392 4900 800. Questo era Giacomo da San Sepolcro, è solo l'inizio. Buon ascolto dalle F frequenze. Cold, shadow white. Dark angel with dark glasses, dark shadow. cigarettes and cocktail gloves and a strapless dress. She cuts a perfect silhouette, but she's a dark angel wearing dark glasses, a fading beauty as the night time passes. I say, black car, black car, look better in the shade. Black car, black car, black car, look better in the shade. Gino Vannelli con Black Hearts, era il 1984, io fra un anno prendo il motorino. Bei tempi, bei tempi. Allora, ci fermiamo per un attimo. Il motorino, ah, non so. No, era di colore beige. Sì, ma inizialmente, non poi l'ho fatto diventare il mio era di colore celestino. Mi ricordo. Allora, ci fermiamo un attimo da quello che è il nostro modo consueto di condurre questo, che chiamarlo programma è comunque troppo. Un po' sdrammatizzante. Esatto, perché è accaduta una cosa in Val di Chiana abbastanza grave nelle ultime ore. Accadendo e sta ancora accadendo. Quindi c'è un incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio nei pressi di Foiano della Chiana, in un'azienda nei pressi della località della stazione di Foiano della Chiana. Che sta creando un disagio importante, perché purtroppo è un incendio di grosse dimensioni e presumibilmente stanno bruciando anche dei materiali che potrebbero essere inquinanti, anche se questo andrà poi verificato. Tant'è che sono usciti dei comunicati da parte dell'autorità dove, e questo ve lo riportiamo proprio per fare una notizia di servizio pubblico, dove si invitano appunto i cittadini a rimanere nelle proprie case con porte e finestre chiuse a causa appunto di questo incendio fino a domani. E questo è un invito valido per tutti i residenti nel comune di Foiano e nei zone limitrofi, esatto. Quindi abbiamo un attimino rallentato il nostro ritmo per darvi questa comunicazione, speriamo che tutto si risolva per il meglio. Sicuramente stanno intervenendo in modo tempestivo e stanno facendo il possibile, perché l'incendio è veramente di grosse dimensioni. E naturalmente Radio F vi aggiornerà esattamente in maniera tempestiva qualora ci fossero risvolti di qualunque tipo. Ora mettiamo un altro brano e poi torniamo al nostro modo, che non è questo, perché questo sarebbe troppo per noi. Esatto, infatti siamo un po' a disagio. Esatto, vai Simone, va. Yeah. Miss Morrow. So Goofy del 2004. Dico cose di cui non so assolutamente ma nemmeno il significato. Ma penso, nessuno si aspetta che tu ne sappia. Ma comunque si percepisce anche. Diciamo che è passato questo momento, puoi tornare a dimenticarle tranquillamente. Piazzalta, sono le 22:30 praticamente, mancano pochi secondi. E stasera le linee sono? Intasate, questo è un sogno della vita. E abbiamo detto, stasera facciamo una puntata particolare, vi abbiamo invitato a chiamarci, a cercarci allo 0575-642276. Oppure mandandoci un messaggio al 392-49-00800. Ma anche al numero privato di Enzo. Cioè. Dopo le due di notte lui risponde praticamente a tutti. Sì, guarda caro Marci, che adesso abbiamo una telefonata internazionale. Ma non ci credo. Ma non da ci molto credo. Lontano. Pronto? Pronto? È molto internazionale. È molto lontano. Aspetta, aspetta. Allora, vediamo un po'. Pronto? Pronto? Oh, adesso, che bellezza. Con chi parlo? Sono Riccardo, da Milano. Ma pensa, e come mai ci ascolti da Milano, caro amico Riccardo? Ragazzi, io vi ascolto in streaming perché sono, devo dire, sono un emigrante, la nostalgia di Foiano la soddisfo ascoltando voi in streaming ogni venerdì, è una cosa che mi riempie di gioia. Ecco, guarda Riccardo, già un depresso ce l'abbiamo sentito poco fa. ecco, tu con che spirito ci ascolti in streaming? No, no, uno spirito gioviale il mio, perché il sorriso si disegna automaticamente sulle labbra ogni volta che sento le sigle, quindi è una gioia. La commozione è tanta, inutile è cerebrale in questo caso. Oltre che anche... Bravi. Senti, dici, raccontaci un po', intanto sicuramente hai dei problemi per aver chiamato Marcello, quindi di questo non ne parliamo, ma dove sei in questo momento, cosa stai facendo? Allora, in questo momento mi sono giusto appunto allontanato da uno dei centri nevralgici, diciamo c'è un'importante fiera di settore in questo periodo a Milano che tutti conosceranno. Certo, la fiera diciamo è un pretesto, poi c'è tutto il satellite degli eventi collaterali dove si beve e si festeggia tutta la notte. Ecco ora, sono un attimo. Adesso ti riconosco. Ma ecco, scusa Riccardo, tu sei uno di quei bambini che poi vengono richiamati perché si perdono e hanno bisogno delle hostess per essere riportati verso l'uscita, o hai dimestichezza con la mappa dei locali? No, no, mi perdo volutamente proprio per cercare le hostess che poi mi riaccompagnino. Bravo, perché bravo. Sono sicuro che è una strategia che paga quasi sempre. Certo. Senti, il tema di questa serata è un po' particolare. Scusa, per me ha funzionato finché ho avuto i capelli. Da allora in poi... Quindi a 7 anni praticamente. dicevamo, il tema di questa serata è capire appunto cosa fate, cosa state facendo, ma anche cosa farete. Essendo a Milano praticamente ancora è pomeriggio per te, nel senso deve iniziare la serata, immagino. Siamo all'aperitivo, Marcello va a letto normalmente in questo momento. qua ragazzi, il problema sai qual è? Che qui vedi, come dire, le nuove tendenze della moda e ora si va tutti con la caviglia scoperta, non so se l'hai capito. Ma guarda, è freddo Riccardo, ecco. È freddo, poi ti prendi il raffreddore, copri la caviglia. Ma infatti senti come sto con la voce, perché io cerco di adeguarmi alle tendenze della moda milanese, ma non ce la faccio. Anche perché Riccardo... Quella moda mi sembra che coinvolga più i 18/20 anni, dalla tua voce mi sembra che un paio d'anni in più tu ce l'abbia. Tre. Devo essere sincero, tre. Ma come si svolge ora, visto che abbiamo la fortuna di sentire te, che normalmente diciamo non è il nostro bacino d'utenza, anche se lo streaming, se il cielo vuole, fa sì che ci ascoltiate da tutte le parti del mondo, quindi diciamo qui siamo un po' meno abituati. Diciamo, quale potrebbe essere il programma a seguire della serata dopo l'aperitivo? Allora, dopo l'aperitivo sicuramente si va in una terrazza dove c'è un DJ set stasera che fa paura, e là c'è tutte queste cose, lounge, minimal, swaps. Non me ne parlare, guarda, non me ne viene. Lo so che frequenti ambienti. Il minimal praticamente è il suo. Poi se te la capi bene col norvegese e con l'olandese c'è da chiacchierare tutta la sera, perché sono giovanissimi designer che propongono cose, insomma è una serata interessante, ma soprattutto serve parecchio vino per parlarci. Perché ecco, io mi trovo bene con il, con il mimo, posso avere successo. sarebbe una strada interessante. Quindi diciamo, diciamo, Riccardo, per concludere, ringraziandoti per aver scelto anche stasera, nonostante ci sia il lounge, il minimal, e ti lasciamo le tue sudate carte. Qual è l'orario preventivato, del ritiro? Del ritiro, come dire, sub condicio, dipende da come gira la data. Io spero quello... che sia un orario piuttosto avanzato, mi auguro, però insomma vedremo. Cioè, sicuramente fino alle 3 non ce ne parla nemmeno. Mi sembra giusto. Quindi più si va là con l'orario e più vuol dire che la serata è venuta bene. E questo non è e questo dovrebbe essere lo scopo. Poi vediamo se mi riesce. Se volete vi chiamo alle 3 di notte e vi dico com'è finita. Chiama Marcello. Tanto lui ha i pensieri, quindi verso le 3 si sveglia. A quell'ora ti do in modalità vibrazione, quindi va benissimo. Tienilo vicino dove sai. Grazie Riccardo, a presto, buona serata a te. Grazie, e ci sentiamo presto. Parlarvi. È bello anche per noi. Per noi è già bello sapere che ci sei. Salutaci Milano, che è sempre un gran Milano. Saluta Milano, va bene. Ciao Riccardo. Ciao. Ciao. Ciao. Bene, io direi che stiamo andando benissimo. Tra l'altro spaziamo dalla Val Tiberina alla Val Padana, di valle in valle. E noi siamo sempre qui. In Val di Chiana, che è bella e ridente. Ora c'è un altro brano, caro Nino. Incredibile, ancora. Sei pronto? A seguire, senza soluzioni. Simone, stupiscici con un brano israeliano. No, vabbè. Questa sera magari no. Magari la prossima. Sun is mine, sun is mine. con Bardan in my hands. I suoni del giardino, qualcosa di veramente esotico. Mi fai morire. Sempre Piazza Alta, ricordiamo anche un po' quelli che sono i nostri contatti del tipo Facebook, la nostra pagina Facebook. Che cosa succede, per esempio, il lunedì nella nostra pagina Facebook di Piazza Alta, Marcello? Ma io volevo dire vediamo che... Vediamo se te ne ricordi. Dopo 3 anni. Che Simone... Cura la pagina di Piazza Alta. Cura la pagina e ci lavora anche forte. Sì, vabbè, ma... C'è delle iniziative. Un lunedì... Una serata da leone, no? Un lunedì. Una serata da leone. Tra l'altro, lunedì scorso ha postato 2 film meravigliosi. Andate a vedere. No, Django. Yes. E aspetta, ma tutte e due bellissime. Ora, tra l'altro, non mi viene in mente. Dammi un aiuto. È non troppo facile. Le casalingue. No! Dai, dammi un aiuto, Simone. Vabbè, è sempre così, si offende del po'. Shock, comunque bravo. Seguitelo perché veramente sono dei grandissimi film. E poi per il fine settimana appuntamenti con il weekend che domani andrà a postare, se non l'ha già fatto oggi e io non l'ho visto, ma avuto una giornata impegnativa, ma un'altra telefonata, perché questa sera anziché avere un ospite in studio ci siamo chiesti cosa fa il mondo intorno a noi, perché c'è tutto un mondo intorno a noi, che gira intorno. Una citazione. E abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Senti che cucina. Con chi parliamo? Posso fare una cosa? Volevo dire buonasera, simpatici amici. Simpaticissimo amico. Hai già vinto, perché avrebbe vinto la telefonata più simpatica e hai già vinto. Ci dispiace per chi verrà dopo di te e per chi è venuto prima. Abbiamo già il manifesto di Marcello. Non ho capito. Vuole il manifesto tuo. Chiaro, ma a che età lo vuoi? Perché... di quando aveva 16 anni probabilmente, però è in bianco e nero, è sgranato con i capelli, a 18 ancora li avevo. Furio del Furia. Sono delle lastre. Grazie, ma perché ci chiami? No, ma come perché? Ti chiami forse è meglio. Non l'ha detto. No. Ciao, chi sei? Sono Matteo. E da dove chiami? Ti chiamo da Montagnano. Vedi? Val Tiberina prima, Val Padana dopo, Val di Chiana adesso. E come ti senti? Abbastanza bene. Bene, vuol dire che sei sintonizzato bene. Ma poi secondo te... un po' di tosse. Un po' di tosse. E come... ma com'è? Cioè, col catarro? No, se hai ascoltato un minuto forse... No, non importa. La rubrica della salute c'è la mattina, ora ti darò gli orari. Senti, come abbiamo chiesto anche agli altri amici, è obbligo chiederti che cosa stai facendo e dove sei. Ma io volete la versione reale o quella più eccitante? No, dacci quella reale. Ancora siamo in fascia. Ancora non possiamo. Ma facci sognare, giù. Allora, se per farvi sognare vi dico che mi sono fatta appena la doccia e sto per andare in discoteca. Proprio si sente che è vero. Come mia consuetudine troverò una donna, eccetera. Ecco, ascolta, questo è il tuo sogno, l'abbiamo capito. Questo è il mio sogno. Svegliati adesso. Adesso vi dico che sono in casa con 2 bimbe piccole, di cui una anche un po' malata, c'ha un po' di febbre e quindi niente. Però diciamo che comunque 2 donne l'hai trovate. Sì. Forse 3 addirittura, se tutto tu. Babbo chiamano me. Vabbè, babbo chiamano te. Ascolta, te lo dico per esperienza, può essere anche una convenzione, però... Esatto. bene a saperci. Ma l'importante, insomma, è l'amore che diamo. Esatto. Vogliamo fare anche un discorso più filosofico, no? Va bene così. Vabbè, dai, tra babbi ci intendiamo. Quindi, caro il nostro Matteo, abbiamo da dirti bene un po'. No, nel senso, però una volta avrai avuto una vita sociale. Sì, una volta sì, anche ultimamente, grazie ad un amico, insomma, ecco, mi sono un po' rimesso... In carreggiata a fare cose e a vedere gente dentro un cantiere di Fogliano della Chiana. Ascolta Matteo, ma tu ascolti soltanto noi il venerdì sera o segui, insomma, ci segui da tempo? Anche la mia compagna quando mi parla un po', ecco, essenzialmente voi, non dalle 10 alle 11. Diciamo che la tua compagna ci ascolti perché tu, per non ascoltare la compagna, alzi la radio ad alto volume. Mi sanguina il naso. Come, esatto? Mentre le cuffie. Senti, ma tu ci avevi da farci sentire anche un'altra cosa, forse? Hai detto che sei un nostro grande fan. Dimostraci. Sì, c'ho qui un amico che mi voleva salutare. Posso? Sì, prego. Signor, questa è una carrambata. Questo è uno dei momenti più alti. Ci sta provando, perché... Vabbè, non posso dire niente, non posso dire niente. Esatto. Bravi. Il nostro è maschio. Va bene. Allora la mia ci stava provando, ma sono sempre sveglia. Allora guarda Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie, perché nonostante tu avessi da divertirti tanto, hai pensato a noi. Potresti essere eletto e nominato come il più simpatico amico della stagione. La prima telefonata non la batto. Grazie ancora Matteo, salutaci. Grazie le bimbe, salutaci la tua compagna, continuate ad ascoltarci, non ve ne pentirete. Buona scuola. Buona serata ragazzi. Ciao, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Smashing Pumpkin era il 1993 con Sarah Brock. Certo, da noi il ritmo non, sì, non rallenta mai. Da noi il ritmo silenzio. Ritmo. E questa era Siamese Dream. No, scusami, l'album era Siamese Dream. Ho detto bene. Sono le 22:51. In questa puntata straordinaria, sperimentale, il tempo scorre come in quelle altre. Incredibilmente, sì. Vediamo se riusciremo a parlare ancora con un'altra persona che vuole parlare con noi, che vuole vivere assieme a noi. Condividete, ragazzi. Invitiamo a prendere contatto con noi. I numeri ormai li sapete. 0575648276. Oppure ci mandate un messaggio al 392-4900800 e noi vi richiamiamo e facciamo un'amabile conversazione. Via Santissima Trinità Foiano ci suonate e noi vi facciamo da citofono. Abbiamo parlato con Giacomo da Sansepolcro, con Riccardo da Milano, con Matteo da Montagnano. E questo, Enzo, vuole anche dire che ci ascoltano gli uomini. Questo, purtroppo sì. Questo vuol dire che si ascoltano solo uomini. Da una parte bisogna anche iniziare. Cioè, ti fai la tua piccola nicchia di radioascoltatori, di fan. E da lì poi. Da lì poi cosa nasce cosa. Uscirne, però si può migliorare. Si può migliorare. Ma immagini, per esempio, tu dopo finita la trasmissione, cosa farai? Io? No. Vai in discoteca con Matteo. Ecco, Simone. Dalla console. Sembra che sia sempre solo concentrato sulla musica, ma non è così. Beh, allora, anche. Facciamo una cosa, ricordiamo ancora, anzi non ancora, ricordiamo la pagina Facebook di Radio F, oppure anche quella Twitter, l'indirizzo Twitter e anche le nostre pagine, come ricordavamo prima, la pagina Facebook di Piazza Alta e il canale YouTube, dove potrete ritrovare tutte le puntate che state ascoltando, le potrete ritrovare in video. E delle interessantissime indicazioni per il vostro tempo libero, direi. Ma come lo dici bene? Allora, adesso direi allora, ascoltatori, di ascoltarci di nuovo un brano eccezionale proposto da Simone e poi per vedere se parliamo con un ultimo ascoltatore o ascoltatrice. Chi lo chissà. Sa? Chissà. Telefonate numero 1. Spin so ceaselessly till Quanti ricordi, bei tempi, vero? Dancing Barefoot. Di che anno si parla? Ma si parla del 1979, guarda, incredibile. Quindi, avevi... addirittura io avevo 8 anni, te anche. Siamo cresciuti insieme e credo purtroppo si senta anche. Sì, ma è sempre bello, insomma, ripensare a certi periodi, è vero? È vero. Però. Allora, questa, come sapete, ormai da anni, anzi dal... 1976. È Radio F, ma da un po' meno è Piazza Alta. E il venerdì sera parte il weekend di Radio F, parte con Piazza Alta, ma a un certo punto Piazza Alta, com'è? Come non è? Finisce. E nella disperazione generale succede anche questo, ma dopo la disperazione c'è anche la speranza, e cioè che... torni la prossima settimana. Io a proposito devo fare dei saluti a delle persone che stanno mandando dei messaggi ma che per vari motivi non abbiamo mandato in diretta, che sono Marco, Federico, Andrea, Simone, Demetrio e basta. Mi sembra. Solo io vorrei far un richiamo ufficiale alle nostre amiche che stanno ascoltando numerose, che poi sono quelle che ci aspettano giù tutte le volte. In effetti, ecco, se stiamo arrivando, però, i saluti li prendiamo volentieri dai maschietti, però... però la compagnia dopo trasmissione dalle femminucce. Ovviamente per chi ci conosce sa che è tutto un delirio, stiamo scherzando, ai noi. Però stasera finisce qua la puntata di Piazza Alta, magari se volete rimanere ancora... È stata però una puntata interessante, molto perché interessante. Abbiamo conosciuto persone, visto c'è nessuno. Però ascoltato persone. E finisce, ma non finisce. Se volete rimanere ancora un po' in onda con noi, può darsi che fra un poco dovremo fare qualcosa di utile, di servizio, di straordinario. La Piazza Alta ufficiale finisce qua, vi salutiamo. A venerdì prossimo. E qualcos'altro di intelligente? Niente, io mi associo a te, voglio ringraziare Simone Oneone perché anche oggi, per le riprese, soprattutto, per le riprese, e per la parte tecnica, per aver trovato queste fantastiche musiche. Ah, beh, un film. Quanto sarei falso? E quindi si sentiva? Io direi basta, perché quando è troppo è troppo. Vediamo l'appuntamento a venerdì prossimo perché abbiamo già degli ospiti. Ah, una puntata straordinaria. Ecco, non perdetela perché è qualcosa di veramente unico. Un galoppo virtuale, direi così, non direi altro. Buonanotte. Buonanotte, ma rimanete con noi. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica, Simone! Une.